Ciao Natali, Gianni, da. E dove si diretta? C'è diretto Natali. Sì, a prendere del kerosene sto andando. Ma se tu. Scherzo, fa calore, c'è. Poi per dare un po' solo. E ne ho due su per kerosene, capito? E come viene? Un caldo pauroso, altro che le tuffe a gas, sono bestiali questi, ne una grande e una piccola. In casa di mamma ce la avevamo, prima avevamo quelle columbiche a legna che era la migliore secondo me, e tranne quando c'era vento contrario che c'entrava il fumo dentro a casa, però poi la seconda che abbiamo avuto è quella a cherosene. Però ce l'avevamo grande noi, di quelle grandi. E niente, mamma aveva messo quella lì, scaldava però solo l'ambiente dove eravamo e non scaldava altro. Eppure questa scalda di brutto. È grande questa che ho io, una ne ho piccolina però è in cucina, e scalda anche quella, vabbè. E a consumo? A consumo, io a consumo ne va rasulli. Vabbè. E quanto costa il kerosene al litro? È un bidone 30 euro, mi sembra che costa. Ed è 20 litri, così. E vabbè. C'è quella pelle che conviene? Lo so, però basta, questa è un vera stufa. Lo so. E vabbè, fa la spesa una volta e... Sì, già lo so. Purtroppo i soldi me li hanno prestati il vecchio principale, quindi me ne sono dovuto andare per quello. E sono senza sì, quindi a prendere una stufa, avevo un di là, ma è così. Vabbè, quando si prende la pena, non è difficile, ma adesso, ma dico, come convenienza, tu fai il conto, no, te le vendiamo a 4 euro e 90, qualche cosa del genere, e ti fa una giornata, con la stufa sempre accesa tutto il giorno, ti fa una giornata, e te ne va tanto un po'. Sì, già conviene. E io lo chiedo sempre a Fritti, quanto è che ce ne vuole per... Dice, qua, se lo lasci tutto il giorno acceso, ne sprechi praticamente quasi un sacco, però ti fa vantaggio per le domani anche. Però scalda un po'. Te lo ricordi anche a casa di Franco, quella scusa aperta che c'era un po' di caldo per darmi? Lo so, e non l'accendeva al massimo, no? L'accendeva a uno, mi sembra, la metteva. Già lo so già, se scalda un po'. Poi ha sempre questa fiamma allegra, deve essere che entra aria. Ehi, c'ha la ventola, c'ha, no? Dentro. C'ha la ventola. Però il fatto è tocca forare per togliere il tubo fuori, cazzo, un casotto, Sta a me a piazzarla, capito? E ci sono anche quelle piccoline. Tutte col tubo sono, devi togliere il tubo fuori per forza. No, dai qua. Dai qua, vuoi dormire? Marco, si dice? Cazzo, ci più facile di te, va una rosi. Marco, saluta la casa, ciao. Ciao Marco. Ciao ragazzi. Dice che è stanco, io si è sentito male, ha vomitato, ha vomitato quanto ci aveva in corpo. Poi qualche cosa gli aveva fatto male, abbiamo fatto la pasta alla carbonara, poi la chiusa mantetta che voleva qualche cosa, lo si è messo. Si lamentava che aveva sempre mal di pancia forte, proprio mal di pancia forte, e dopo si è sentito pure e ha vomitato. Ah, è un virus influenzale, fa anche a diarrea, fa. Non va niente, Rubizzino, non ti preoccupare. È un virus influenzale, fa anche a diarrea, fa. Perché a mia moglie gli ha fatto la stessa cosa. Si è fatto bianco, in faccia. Non abbiamo lasciato. Ha fatto pure la diarrea, Ghita, l'ha fatta, non so, l'udate. è un virus intestinale. E poi Concetta è molto delicata in queste cose, molto delicata. Mi era so così dimenticata, si scurso così, la sera su tardi non la faccio uscire perché sinora poi lo so qui la pizzicheggia. È molto delicata, dove c'è a pochi anticorpi e si piglia tutti i malanni, raffreddori, eccetera, eccetera. Basta appena l'aria e la buca. Ieri se ne è alzata di scatto perché è venuto un grato, beh, tutto il giorno con la gamba dolorante è stata, figurati, poi le giunta sia diarrea, crepata era. No, lo devo dire a me, l'altra notte sotto la cuscia, cazzo, mi è giunto questo crampo natalista, ma allucinante qua, non riuscivo più a muovere la gamba. E anche mia moglie, al polpaccio ce l'aveva, gli ho detto, passi il piede in terra in fretta. E gli è rimasto tutto il giorno questo dolore qua, alla gamba, figurati. Che maledetto, anche a me fa così. Ti passa però quel dolore e ti rimane sempre il dolore tutto il giorno. E ha fatto anche a me così. Come mi ha pigliato sotto la coscia, si è fatta dura. Lì invece al polpaccio l'ha preso. Quello lì magari è anche freddo, boh, qualche sforzo magari che fai più del solito e ne risenti la notte, capito? Secondo come ti muovi, non facevo a girarmi, cioè dopo che mi è venuto, mi è passato, non facevo a girarmi, se mi giravo mi è ritornato. A me mia zia mi ha detto che ci vogliono i sali minerali per non venirti grampi, è mancanza di sali minerali. Basta assumerli con l'acqua, prendi un'acqua gassata, acqua San Martino, così, e sali minerali ce li ha. Sì, bisogna bere molto, perché se uno non beve, italiano bisinuta, e quando ti disidrateggi ti va di su scherzo. E a volte anche io un po' mi trascuro lavorando, non ci penso a bere, anche se magari ho sette lascio perdere perché magari c'ho fretta di portare, di fare, tipo questi giorni. E chi cavolo sta bevendo? Non c'è tempo manco di andare in bagno, solo di bere. Già lo so, anch'io non bevo, quando lavoro non bevo nulla, ma dopo che andando a casa. Sì, perché conviene sempre una bottiglia d'acqua a portarsela appresso, perché è giusto che si beva. Il nostro corpo è fatto al 70% di acqua, non dimentichiamo. Infatti mia zia mi ha detto che scarsa, perché uno beve poco che gli vengono i grappi. Qualche scusa ci deve essere, però a me a volte anche alla mano mi si blocca la mano, ma tanto succede una volta un crampo alle dita natalizia della mano e tutta la mano compresa, sembrava una paralisi, non riesci più a muovere, un dolore lancinante, guarda, che non si poteva stare da quanto era forte. Ho preso con un'altra mano, me la sono massaggiata in fretta e poi mi è passato, mi sentivo i termini che tiravano proprio di brutto. Infatti. Cosa è momentanea, ma cavolo, in quel momento lì ti fa impazzire il dolore. A volte io mi sveglio anche col capo, dopo che magari fa molti sforzi e cosa ti succede, no? E mi sveglio proprio dal dolore. Capara, sto scendendo già che sono arrivato da te. Carmino, vabbè.